Bibbia Martini, primo libro dei Re 10. La regina di Saba va a trovar Salomone. Ammira la tua sapienza, la magnificenza e il governo. E fatti, e ricevuti i regali, si parte. Salomone riceve da altre parti molti tributi, e dell'oro, forma de vasi, e degli scudi, e un trono magnifico, delle molte, e preziose sue suppellettili, de vasi, de cocchi, e cavalli, abbondanza di argento e di legname di cedro. Ma anche la regina di Saba, essendo pervenuta a lei la rinomanza di Salomone, nel nome del Signore andò a far prova di lui coi suoi enimmi. Ed entrata in Gerusalemme con grande e ricco accompagnamento, e coi suoi cammelli, che portavano aromi, e oro in copia infinita, e gemme preziose, si presentò al re Salomone. E gli espose tutto quello che ella avea in cuor suo. E Salomone la instruì sopra tutte le cose che ella gli propose. Nessuna venne ebbe, sopra la quale il re fosse all'oscuro, e non le desse risposta. Veggendo adunque la regina di Saba tutta la sapienza di Salomone, e la casa edificata da lui, e la imbandigione della sua mensa, e le abitazioni dei suoi servi, e i vari ordini dei ministri, e le loro vesti, e i suoi coppieri, e gli olocausti che egli offeriva nella casa del Signore, ella restava fuori di sé, e disse al re: «Vere sono le cose, che io avea sentite dire nel mio paese, riguardo a tuoi ragionamenti, e alla tua sapienza, e io non prestava fede a coloro, che me ne parlavano, fino a tanto che io stessa son venuta, e con gli occhi miei ho veduto». E toccato con mano, come non era stata detta a me la metà del vero, la tua sapienza, e le tue opere sorpassano tutto quello che io ho sentito dire. Beata la tua gente, e beati i tuoi servi, i quali si stanno sempre dinanzi a te, e ascoltano la tua sapienza. Benedetto sia il Signore Dio tuo, il quale ti ha amato, e ti ha posto sul trono d'Israele. Perché il Signore ha mai sempre voluto bene ad Israele, ed egli ti ha fatto re, affinché esercitassi l'equità e la giustizia. Ella dunque diede al re 120 talenti d'oro, e molti aromi, e gemme preziose. Non furono portati mai più tanti aromi, quanti ne diede la regina di Saba al re Salomone. Oltre a ciò l'armata navale di Iram, la quale portava oro da Ofir, portò parimente da Ofir molto legname di tino, e gemme preziose. E il re fece del legname di tino le ringhiere della casa del Signore, della casa reale, e delle cetre, e delle lire per i cantori. Non fu mai più portato simil legname di tino, né se ne è veduto sino al di d'oggi. E il re Salomone diede alla regina di Saba tutto quello che ella bramò e gli domandò, oltre a quelle cose che volontariamente ei le offerse con magnificenza da re. Ed ella si partì, e tornossene con la sua gente al suo paese. Or la quantità d'oro, che era portato a Salomone anno per arino, era di 666 talenti d'oro, senza quello, che portavano a lui quelli, che avean la soprintendenza dei tributi. E i negozianti, e tutti i merciai, e tutti i principi dell'Arabia, e i governatori del paese. Fece ancora il re Salomone 200 rotelle d'oro finissimo, e consumò 600 sicli d'oro per le lamine di ciascheduno di questi scudi. E fece 300 pelte d'oro affinato, 300 mine d'oro coprivano una pelta. E il re le collocò nella casa del bosco del Libano. Fece ancora il re Salomone un trono grande d'avorio, e lo vestì d'oro giallissimo. Egli avea 6 gradini, la sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro, e 2 bracci, uno di qua, e uno di là tenevano la sedia, e 2 leoni stavan presso all'uno, e all'altro braccio, e 12 piccoli leoni stavano sopra i 6 gradini da una parte, e dall'altra, non fu fatta mai opera tale in ver un altro regno. Oltre a ciò tutti i vasi, ai quali bevea il re Salomone, eran d'oro, e tutto il vasellame della casa del bosco del Libano era di finissimo oro, non vu era argento, di cui non si face nessun conto a tempo di Salomone, perché le navi del re andavano in mare una volta ogni 3 anni con le navi di Hiram a Tarsis, donde portavano oro, e argentone, denti di elefanti, e scimmie, e pavoni. Fu dunque il re Salomone il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e sapienza. E tutta la terra desiderava di veder Salomone, per udir la sapienza posta da Dio nel cuore di lui. E tutti gli portavano ogni anno dei doni, dei vasi d'argento, e d'oro, delle vesti, e degli strumenti da guerra, e aromi, e cavalli, e muli. E Salomone radunò cocchi, e soldati a cavallo, ed ebbe 1400 cocchi, e 12.000 uomini a cavallo, e li distribuì nelle città fortificate, e in Gerusalemme presso al re. E fece sì che l'argento abbondava in Gerusalemme come le pietre, e il legname di cedro rendette tanto comune, quanto i sicomori, che nasconde nelle pianure. E i cavalli venivano a Salomone dall'Egitto, e da Coa. Impero che quelli, che li comperavano pel re, li conducevano da Coa pel prezzo fissato. Or venivagli 4 cavalli dall'Egitto per 600 sicli d'argento, ogni cavallo per 150. E in tal guisa tutti i re etei, e della Siria vendevano i loro cavalli. Note 10,1. Ma anche la regina di Saba. Et. L'opinione di Teodoreto, il quale mette il regno di questa celebre donna nell'Arabia Felice verso l'estremità meridionale del Mar Rosso. Questa opinione combina anche con le parole di Cristo, il quale, Met. 12,42. Chiamò la regina del Mezzodi, perché propriamente da Mezzodì è l'Arabia Felice riguardo alla Giudea. Combina anche con quello, che ivi si aggiugne, che questa regina veniva dagli ultimi nomi della terra, perché l'Arabia stessa si avanza molto verso l'oceano, che era riguardato come la fine del mondo. Sono anche noti i Sabei dell'Arabia, e questo paese abbondava appunto di tutte quelle cose, che furono dalla stessa donna portate in dono a Salomone, e da alcuni versi di Claudiano, Eutrop. Libelle, si vede, che tra quei Sabei regnava le donne. Del nome di questa nulla abbiam di sicuro. Gesù Cristo lodò la sollecitudine, che ebbe questa regina di udir la sapienza di Salomone, e cui l'esempio di lei condannò la trascuranza degli ebrei, i quali avendo tra loro chi di gran lunga era superiore a Salomone, nessun pensiero si davano di udire le sue parole. Dal discorso adunque di Cristo si interisce, che la venuta di lei fu per imparare non già la scienza delle cose naturali, o politiche, ma la scienza delle cose divine e la vera religione. Ella fu degna perciò di essere per la sua pietà celebrata da padri, e riconosciuta come una bella figura della Chiesa delle genti, mentre ella è straniera. E sconosciuta corse ad udir l'oracolo della nel nome del Signore andò e ci, ispirata da lume celeste e mossa da viva brama di istruirsi riguardo a quel Dio, di cui avea udite raccontarsi le meraviglie a pro del suo popolo, e particolarmente le cose grandi operate sotto il regno di Salomone, venne a trovarlo per proporgli i suoi enimmi. Essendo quella la maniera assai usitata di proporre le questioni più gravi in qualunque materia. 10,4. E la casa edificata da lui. Il Tempio del Signore, opera, di cui hanno parlato con ammirazione grande anche gli scrittori gentili. 10,11. Molto legname di tino. La voce tina è dal greco, e significa quello che i latini chiamaron sitra, legno odoroso, di gran bellezza, che veniva dalla Mauritania a carissimo prezzo. Vedi Plin. Lib 13. 15, 16. 10,12. Le ringhiere. Eti. Mi è paruto questo il miglior senso, che potesse darsi alla voce fulcro in questo luogo. La voce ebreo è troppo generale, come la latina. 10,15. E i governatori del paese. Alcuni intendono i filarchi dell'Arabia, dei quali vedi gennaio 17,20, onde converrebbe tradurre, e i re dell'Arabia, che governavano quel paese. Altri però vogliono, che nelle ultime parole si parli dei satrapi dei Filistei. 10,17 E fece 300 pelte, 300 mine d'oro, e egli accertò che la pelte era più piccola, e quasi la metà delle scudo, o rotella in grandezza, essendo della figura di una mezza luna, dove gli scudi erano rotondi, ovvero di figura ovale, e coprivano tutto il corpo del soldato. Con tutto ciò le pelte fatte da Salomone pesavano assai più che gli scudi, poroché le 300 mine fanno 18.000 sicli a 60 sicli per mina, laddove ognuno degli scudi non pesava più di 600 sicli. Per la qual cosa convien dire che le pelte fossero assai più massicce che gli scudi, o convien tenersi alla lezione del testo ebreo, il quale ha non 300, ma 3 mine d'oro. Finalmente, siccome nei paralipomeni invece di 3 mine leggesi 300 sicli, si può quindi argomentare che la mina sia posta per 100 sicli. 10,22 Le navi del re andavano ogni 3 anni a Tarsis. Generalmente credesi che si parti ad esse della stessa navigazione, di cui vi è secondo, onde o Tarsis in questo luogo significa il mare dell'India, o qualche porto famoso in quel mare, e vicino ad Ophir. 10,27 Quanto i sicomari, e ci è una pianta assai comune e assai grande della Palestina e dell'Egitto, simile al fico che getta il suo frutto dal suo stesso tronco. Frutto però di poco gusto. Del legno di essa servivansi i poveri per le loro fabbriche, Isai. 9,10 10,28 E da Coa. Alcuni intendono la città di Coa nell'Arabia Felice, altri quella detta con l'Egitto. Il vero si è che non abbiamo nulla di certo riguardo a questo luogo. 10,29 In tal guisa tutti i re etei della Siria vendevano, e ci si accenna che Salomone comprava dei cavalli non solo dall'Egitto, ma anche da re degli etei della Siria. Questi etei dovevano essere un popolo della Siria, o della Celesiria.